Ed eccoci tornati su Radio ZM, sono le 15:15 e siamo tornati col programma in diretta dalla Palestina, dove cerchiamo di andare in diretta palestinese, però oggi ci limitiamo magari a raccontare delle storie e anche a riassumere quello che abbiamo sentito nelle precedenti puntate, perché non faremo collegamenti. Eh sì, oggi purtroppo non sono riuscita ad organizzarli, quindi ci arrabattiamo noi qua direttamente dalla radio, in qualche modo, cercando di non fare delle O cadute. di non registrare i programmi prima che partono. Ecco, Però metteremo sì, della musica vabbè. talmente bella che verremo scusati di tutte le nostre sbadataggini. Quindi andiamo avanti, siamo carichi. Tra l'altro la musica tutta nuova per la prima volta e soprattutto sono tutti cantanti palestinesi proprio, le Perfetto. musiche nuove di oggi che ascoltiamo per la prima volta insieme, tranne l'ultima che invece mi sembra sia tunisina, dopo controllo per sicurezza, per non dire cose sbagliate, però sì, tutti questi che avete ascoltato finora sono proprio palestinesi, originali, palestinesi. E ovviamente risuona questa malinconia sempre, queste sonorità un po' tristi. Poi chissà di cosa parlano, perché io non tutte riesco a capire. Immagino. E niente, va bene, eccoci qua. Parliamo un pochettino di Palestina. Io Vai. volevo cominciare ricordando che adesso faccio scandalo. Il 9 aprile è stato il compleanno, si è verificato il compleanno di Leila Khaled. Ok. Io non so se chi è in ascolto sa chi è questa fantastica. Io oggi infatti mi sono messa pure la maglietta che abbiamo fatto con Degenerazione, con la sua faccia. Io sono sicuro che sia già riecheggiato il suo nome in radio. Quasi sicuro. Sì, beh, è abbastanza famosa, se non fosse, cioè, anche soltanto per l'immagine, direi, non dico come la faccia del Che, però dai, siamo lì. No, mi ricordo anche perché la cosa bella è che nello spazio dove siamo adesso, che è il collettivo ZAM, fuori dal muro, di recente è stato dipinto il viso. Sì, Ti ho sì, sì. rubato quello che volevi No, no, no, dire. Però no. mi ricordo che quando questo muro era in lavorazione, eravamo in radio che raccontavamo cosa stavamo facendo e abbiamo descritto questo muro, per questo ricordavo che fosse già riecheggiato il suo nome. Sì, io sono molto contenta infatti che nel nostro centro Guarda sociale. che c'è Sì, la sono. risatina di Giulia, era partita un quarto d'ora fa. Devo dire, adesso non posso parlare la mia eroina, però diciamo che di sicuro è una donna che ha dimostrato una forza, una determinazione e come dire, molto salda sui suoi principi politici non indifferenti. E, vabbè, io volevo accennarvi minimamente la sua storia. Leila Khaled nasce il 9 aprile del 1944 ad Haifa, che è una città appunto palestinese, però che nel 1948 però viene completamente annessa a territorio israeliano. Quindi ad oggi Haifa fa parte appunto dello Stato di Israele. Quindi la sua famiglia viene una di quelle che viene dislocate e lei già da molto piccola, anche lei non viene allontanata dalla sua città natale e non vi farà più ritorno, proprio perché Leila Khaled, molto giovane, a un certo punto decide di entrare nel PFLP, che è uno dei partiti di estrema sinistra palestinese. La costola palestinese del movimento fondato da George Abbas, e niente, lei diventa una militante vera e propria ed è famosa in tutto il mondo, purtroppo anche con l'appellativo di terrorista, perché è la prima donna in assoluto ad aver partecipato ad un dirottamento aereo. Io ricordo sempre che comunque lei, sia per direttive del partito, ma cosa in cui crede anche lei, non ci sono mai stati feriti, lei ha partecipato a due dirottamenti e nel 69 e nel 70 non ci sono mai stati feriti, proprio per scelta politica si voleva preservare la vita e la salute dei civili a bordo degli aerei. E era proprio una scelta politica quella di dirottare gli aerei proprio per attirare l'attenzione mediatica internazionale sulla questione palestinese. E in quel periodo furono parecchi. Poi ad un certo punto il PFLP ha abbandonato questo tipo di pratica E vabbè, ovviamente dopo queste Leila Khaled ha subito, ovviamente è stata incarcerata, poi rilasciata, è stata mandata in esilio. Lei adesso attualmente vive in Giordania, ad Amman, è sposata con un medico, ha due figli e vabbè, appunto è molto famosa proprio per queste scelte estremamente radicali e poi perché appunto è stata una donna a farlo, è stata la prima donna a farlo. E famosissima la sua immagine, una foto che le è stata fatta proprio con la kefia intorno alla testa e un fucile in mano. E io credo appunto che sia un esempio non indifferente di proprio lotta per la propria terra, la propria popolazione. E quindi, visto che è appena passato il suo compleanno, mi faceva piacere un attimino parlare di lei, anche perché poi dopo quando parlerò di West Climbing Bank, quando si va in giro a fare le presentazioni del nostro progetto, ecco, ci sono diciamo, dei punti oscuri di cui non è facile trattare in pubblico, soprattutto quando hai un pubblico variegato, persone che magari non sono per forza vicine ai centri sociali. E quindi, ecco, parlare di Leila Khaled, non è così facile, perché giustamente opinioni diverse, menti diverse, quindi non sempre si può incappare magari in qualcuno che la pensa proprio come te. È il bello della radio libera, da un certo punto di Esatto, vista. Sfogati, quindi sì, no, infatti, vabbè, divertiti. io ho profonda ammirazione per questa donna, Sì, anche si perché vede. tuttora adesso lei continua appunto a girare, prova a girare il mondo, per esempio qualche anno fa stava per venire in Italia. Ma è arrivata in Italia, a Roma, a Fiumicino, ma in aeroporto l'hanno bloccata. No, tu sei bollata come terrorista, quindi te ne torni indietro. E insomma, quindi anche queste sono informazioni e poi scelte politiche che hanno un forte impatto, secondo me, sull'opinione pubblica. Però lei continua a combattere, adesso fa parte dell'Unione dei Comitati per la Difesa delle Donne. E è molto vicina anche alla lotta curda, quindi diciamo che magari nonostante l'età, nonostante anche la difficoltà di non essere più riuscita a tornare nella sua terra natale, credo che sia un causa di grande sofferenza e limitazione per lei, comunque non ha mai smesso di lottare e questo secondo me ha trovato sempre qualche strumento e non è indifferente, hanno fatto pure un documentario su di lei. Una regista palestinese, è un docufilm uscito un po' di anni fa ed è molto, molto interessante. Si chiama proprio Lei la dirottatrice. Quindi anche su YouTube è molto facile da trovare, da vedere, è libero. E io consiglio la vista almeno di questo piccolo documentario perché non è molto lungo. E sì. Mio sogno non segreto perché è poterla incontrare un giorno, però non è così facile, ovviamente. Chissà, chissà quando io Vedremo. potrò rimettere piede laggiù, non si sa. E niente, direi questo e magari lanciamo una piccola canzone, Anche due. anche due, e poi riprendiamo con le parole. ياسمين وفلي كمان أحمر برقوق ورمان أخضر أصيل الصبر والدين جني ملياني ألحان فجأة ما بعرف شو صار حن هالسنبل ما شوي شوي يا ليلة تروح إذا بان نهار بتبان الجروح شوي شوي يا ليلة تروح إذا بان نهار بتبان الجروح شوي شوي يا ليلة تروح إذا بان نهار بتبان الجروح شوي شوي يا ليلة تروح إذا بان نهار بتبان أبيض ياسمين وفلي كمان أحمر برقوق ورمان أخضر أصيل الصبر والدين جني ملياني ألحان أسود ولا مرة الليل بي Yeah, da da yeah, da. pezzone. Caspita, sì. Questo non me l'aspettavo. Bello, bello. Tromba. No, sono contento anche perché in questi giorni stiamo chiedendo a tutti e a tutte di darci un po' di musica. Iniziamo un po'. Dici, cosa c'è? No. È sempre stato solo uno, Giulia. Ma proprio da tipo dicembre 2018, penso. Aiuto. Quindi easy, super easy. Funziona no, oggi tutto. Sono fusa. Siamo alla grandissima, stiamo navigando, siamo on air, Radio ZM. No. Ci siamo. Lo so, ma bene. Poi appunto è soltanto facendo e provando che esatto, impari esatto, anche esatto. Sbagliando. Però no, tutto regolare, stiamo registrando, siamo in linea, i microfoni sono accesi, ci sentite? Ci sentono? Sento le ore, senti che boato, voi non li sentite perché sono fuori, esatto, mezzo quartiere che urla. Scusate per i The Cure che c'entravano sì, bellissimi, belli, però c'entravano però poco c'entravano e mi sono distratta io sulla selezione delle musiche. Non c'è problema. Perdono. Quindi dicevamo che stiamo archiviando sempre musica nuova, se qualcuno o qualcuna ha voglia di mandarci un po' di MP3, li accettiamo ben volentieri, ovviamente saranno filtrati, sappiatelo, sì. Molto filtrati, e, però ci siamo, quindi è bello che questo database palestinese cresca sempre di più per arricchire i programmi notturni, perché la musica a rotazione va avanti H24 da quando abbiamo sistemato tutta l'apparecchiatura. Finalmente. Siete stati bravissimi. Sì, diciamo che è un tampone, nel senso che è una cosa momentanea. Però per adesso funziona come cosa momentanea e riusciamo a trasmettere. E ne approfitto anche per comunicare che abbiamo deciso di cambiare le giornate relative alle repliche, ai podcast, e avrete il piacere di usufruire della domenica come giorno per sentire tutte le repliche della settimana. Tutte, una dietro l'altra. Una dietro l'altra, da mezzogiorno alle... quanto dureranno non si sa, da mezzogiorno alle X. Ci saranno le repliche di tutta la settimana e durante la settimana programmi originali e musica a rotazione anche che stiamo accuratamente selezionando. Sì, direi che è proprio un ingranaggio bene oliato. Esatto, inizia un po' a muoversi senza far rumore, tranne le sedie che ci voleranno per un bel po' di tempo, mi sa. Però anche lo studio in questi giorni abbiamo sistemato, abbiamo messo a posto, è più accogliente, più spazioso, usciranno delle foto e ringraziamo Yaffington, dottor Yaffington, fotografo reporter del collettivo, per aver immortalato la radio nel momento di massimo settaggio, massimo splendore. E ci stiamo preparando anche ad affrontare programmi molto più complicati di semplici dirette con due microfoni, ma anche appunto telefonate fuori piuttosto che musica che viene da fuori a dentro. Non faccio spoiler perché l'abbiamo già comunicato, però ci sono dei programmi che prevedono anche agli artisti di poter contribuire con la loro musica da casa mandandola direttamente in radio. E sì, quindi rimanete sintonizzati perché ci sono delle novità in arrivo. Sono novità. Torniamo al nostro programmino, Giulia, tutto tuo. Ecco, niente, volevo un po' raccontare dell'esperienza del progetto West Climbing Bank. Avevo già accennato come era nata quell'esperienza, perché appunto Naji, palestinese del campo profughi di Deisha, era venuto qua, aveva trovato, alla ricerca di un gruppo di persone che arrampicassero, aveva trovato noi. E da lì appunto abbiamo incominciato, da 3 anni che ci rechiamo in Palestina, portando appunto la pratica sportiva dell'arrampicata, però con una connotazione politica ben precisa, usare lo sport come, diciamo, presidio contro l'occupazione israeliana. Questo perché sia per divulgare una pratica sportiva che per strumenti e mezzi sarebbe molto difficile all'interno di un campo profughi, ma anche perché appunto l'occupazione israeliana continua ad andare avanti, diciamo che pian pianino loro cercano di guadagnare terreno fisico, intendo proprio a livello di territorio, e in particolar modo lì vicino al campo profughi di Deisha, a sud di Betlemme, c'è una zona considerata anche parco naturale, costellata da piccoli villaggi, proprio piccolini paesini, e sono delle colline molto piccole, niente di trascendentale, però appunto dove i palestinesi si recano a fare delle passeggiate, dei picnic, dove appunto si può stare a contatto con la natura. E lì, insieme al gruppo di volontari di Leilac, noi abbiamo individuato proprio una zona dove poter costruire delle vie di arrampicata. Il primo anno abbiamo fatto questo fondamentalmente. Il piccolo gruppo è andato in avanscoperta, sia per iniziare il rapporto di scambio con l'associazione Leilac, ma anche per rendersi conto di che cosa si poteva fare a livello pratico. E quindi, oltre che dare manforte a livello di strumentazioni, quindi corde, scarpette, rinvii, tutto ciò che c'è bisogno, di cui si ha bisogno per arrampicare, abbiamo perlustrato la zona, appunto lì, si chiama El Mahrour, vicino al paese di Batir, e abbiamo individuato delle pareti dove poi negli anni successivi siamo andati a costruire, proprio con i trapani e tutti gli aggeggi che io adesso non mi ricordo neanche bene i nomi tecnici, per appunto mettere nella parete tutti i chiavistelli, tutti i rinvii, non i rinvii, gli anelli per poter poi arrampicare, quindi lasciare, costruiti insieme anche ai ragazzi palestinesi ovviamente, ma lasciarli lì in modo tale che loro in completa autonomia durante l'anno possano usufruire di queste strumentazioni e quindi riappropriarsi di quel luogo. Questo perché, soprattutto negli ultimi mesi, da quando noi abbiamo cominciato ad andare lì, più volte, l'esercito israeliano ha provato a mettere proprio in quella zona il presidio militare, che diciamo è il primo step che loro attuano per poter, impadronirsi di un luogo. E appunto quella zona è abitata da palestinesi, ma è area C, quindi non è completamente so non è sotto il controllo palestinese. E in questo modo loro possono iniziare a mettere un presidio militare, quindi chiudere l'ingresso a quella zona, non per qualsiasi motivo, cioè non si può più transitare per nessun motivo. E da quel momento in poi loro iniziano a costruire. Infatti, mentre ero giù, prima che arrivasse il gruppo, ad un certo punto ci è arrivata la notizia proprio che avevano iniziato questa procedura con alcuni dei ragazzi dell'associazione Leila, che abbiamo deciso di andare a vedere con i nostri occhi cosa stesse succedendo. E infatti a un certo punto sulla strada per raggiungere appunto El Mahrour siamo stati fermati da dei soldati israeliani che ci hanno detto che non era assolutamente possibile transitare e che dovevamo tornare indietro. E in quell'occasione i ragazzi mi hanno anche detto molto chiaramente che erano stati gentili, quindi si erano limitati a dirci non potete pa passare, andatevene, proprio perché hanno notato subito la presenza di un'internazionale. Perché se non ci fossi stata io, probabilmente, spero di no, ovviamente sempre, ma non ne sono così sicura, sarebbero stati anche magari un po' più duri. E quindi da quel momento i paesini in quella zona hanno proprio lottato con le unghie e con i denti per far sì che questo presidio militare venisse tolto e ci sono anche riusciti, però a un certo punto erano arrivate proprio anche le trivelle. E quindi diciamo che il fatto di poter andare lì e arrampicare proprio in quella zona specifica ha una connotazione politica assolutamente importante, perché permette ai palestinesi, hanno uno strumento in più per potersi riappropriare dei loro territori. Ed è ci è anche capitato alcune volte che mentre eravamo lì ad arrampicare tutti insieme, passassero degli israeliani, dei coloni o dell'esercito a chiedere appunto che cosa stessimo facendo, perché anche sempre con tono molto sarcastico e appunto, è uno strumento in più e speriamo che in questo senso possa essere un piccolo tassello sempre nella lotta palestinese. E niente, appunto, in questi anni sono 3 anni che continuiamo ad andare giù nel periodo di Natale perché è per una questione molto pratica, è il periodo in cui le persone hanno più tempo perché ci sono più giorni di vacanza. Perché anche tendenzialmente il tempo meteorologico lo permette, perché in estate lì da maggio comincia a fare veramente troppo caldo per poter poi stare all'aperto e arrampicare, e soprattutto se questa cosa coincide anche con il Ramadan, il periodo in cui loro non possono mangiare e bere durante il giorno, diciamo che diventa difficoltoso arrampicare. E quindi noi abbiamo sempre scelto questo periodo. Questo anche per dire che è un progetto del tutto aperto, quindi chiunque volesse partecipare non è che non c'è una selezione all'ingresso. Le cose minime basilari che noi richiediamo, ecco appunto, farsi avanti per tempo perché non è tecnicamente possibile accodarsi al gruppo nel momento in cui si parte a ridosso della partenza proprio per una questione anche di sicurezza. visto che bisogna passare tutti i controlli, bisogna aver presente dove si va, bisogna essere preparati. E quindi tendenzialmente noi da settembre riapriamo un attimino il nostro, le nostre presentazioni, la nostra organizzazione, facciamo anche degli incontri di formazione, proprio perché non bisogna sapere tutto della Palestina, la storia, però un minimo di cognizione di causa bisogna averla. E quindi facciamo anche questi incontri per essere più o meno tutti sul pezzo. Poi ovvio si va lì anche per scoprire, quindi parallelamente al progetto di arrampicata si sviluppa sempre questo progetto di conoscenza. E c'è sempre questa sorta di tour che si fa attraverso la Palestina, proprio tutto, si cerca di coprire tutto il territorio perché poi non è grandissimo, e di recarsi in tutte le città possibili, limitatamente col tempo ovviamente, incontrare più persone possibili, ed è proprio il tour della testimonianza. C'è proprio questo rapporto diretto con i palestinesi e le palestinesi, loro amano molto raccontare alle persone le loro storie, anche a volte molto drammatiche. Una cosa che a me ha sempre colpito è però il sorriso con cui te le raccontano, proprio perché per loro altro elemento di resistenza è il poter raccontare agli internazionali le loro storie, e ti chiedono proprio di portarle con te e raccontarle, perché questo è un modo per loro di continuare la loro lotta. E quindi sì, si va giù per l'arrampicata, quindi ci sono persone estremamente competenti in questo ambito, molto brave ad arrampicare, però cioè, è aperto anche a chi magari l'arrampicata non la pratica, non è proprio sul pezzo da questo punto di vista, non è l'amante proprio di quelli super solo si arrampica. Ed è anche, io ritrovo che abbia un risvolto interessante, proprio perché l'arrampicata è uno sport molto individuale. Sei tu, sì, certo, c'è qualcuno giù che ti fa sicura, che ti tiene, fa in modo che tu non ti faccia male, però è poi una sfida con te stesso sulla parete. Sei tu con le tue forze, le tue energie, la tua mente. È molto individuale come sport. E il fatto che questo sport sia aperto ad una causa politica così importante e diventi uno strumento di scambio e di divulgazione e di arricchimento, per me è una pratica politica non indifferente, e credo che sia uno dei risvolti più interessanti del nostro progetto. Anche poi si nota quando torniamo, subito dopo il ritorno iniziamo ad organizzare delle presentazioni in giro, un po' non dico per l'Italia perché è un po' eccessivo, però vabbè, per esempio partecipano a questo progetto persone da Torino, qualcuno anche dalla Spagna, insomma riuscire ad organizzare anche presentazioni in giro un po', non solo per Milano e provincia, fa sì che ci sia proprio questo scambio tra magari sportivi che prima non si sarebbero mai posti domande, problemi su Palestina, cos'è, perché, dove, quando, e invece tramite lo sport arrivi un po' dappertutto. Io credo che questo sia un potere non indifferente. E piacerebbe dire, ci sono domande. Cioè, io ho un paio di domande, ma più che altro a livello cronologico, quando è che avete iniziato? Abbiamo iniziato quanti viaggi si è composto per adesso storia? Finora tre anni. Il primo nel dicembre 2017, dicembre 2018 e dicembre 2019. Tre volte che noi siamo andati giù. E hanno avute tutte e tre degli scopi un po' diversi. Il primo anno era proprio conoscitivo, ci incontriamo con l'associazione, capiamo la zona, abbiamo fatto anche lì il giro per conoscere e incontrare più persone possibili, e poi per tornare e sviluppare, ok, ora cosa possiamo fare in termini pratici. E l'anno successivo è stato l'anno del boom della chiodatura, questo è il termine tecnico specifico per gli arrampicatori, in cui appunto siamo tornati e sono state costruite tantissime vie di arrampicata. Tra l'altro sul nostro sito, ma non solo, perché negli ultimi anni non siamo gli unici che hanno lavorato sotto questo punto di vista in Palestina, ci sono altri internazionali che si muovono più su Ramallah, che è la capitale, tra virgolette, economica della Palestina, e lì c'è un bel gruppo di arrampicatori, e uno in particolare, un ragazzo tedesco, se non erro, ha scritto proprio un libro sulle vie di arrampicata in Palestina, proprio per promuovere questo tipo di, anche di turismo sportivo in Palestina. E le nostre vie di arrampicata sono finite in quel libro, e quindi è anche bello da questo punto di vista. E il terzo anno invece ha avuto più un impatto sociale, proprio perché, visto che era andata così bene anche a Deisha, abbiamo deciso di andare a costruire una palestra di arrampicata indoor, quindi al chiuso, nell'altro campo profughi di Betlemme, Aida. E si è lavorato tanto con i bambini, perché poi si organizzano anche queste uscite tutti insieme, soprattutto a volte ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, e li si è portati ad arrampicare, quindi magari un po' meno tecnica dal punto di vista di costruzione, più divulgativa a livello sociale il terzo anno, sempre ogni anno comunque accompagnato dal classico, io dico classico perché diciamo è fondamentale, ti rechi in un posto per la prima volta in particolar modo, scoprire il luogo in cui si è, come qualsiasi banalissimo viaggio turistico che si fa, una vacanza. Ecco, diciamo che qui il tour ha una portata emotiva, psicologica, politica e sociale non indifferente, però viene sempre organizzato quello ogni anno, soprattutto per chi si unisce al gruppo per la prima volta. È bello, bello tosto perché appunto ci si scontra con una realtà, una quotidianità molto diversa dalla nostra. A volte, appunto, avendo 10 giorni a disposizione, sei proprio buttato a capofitto e non hai neanche quasi il tempo di metabolizzare, capire veramente dove ti trovi e cosa stai Sì, recependo. era una riflessione a cui volevo arrivare in realtà. Eh sì, e infatti. La durata del viaggio è 10 giorni. Sono 10 giorni e di solito li organizziamo in maniera molto fitta. Quest'anno so che ci state un po', non lamentele, però tornati mi hanno detto dobbiamo rallentare un attimo. Sì, perché appunto non sai mai poi anche lì cosa può succedere, c'è sempre un po' l'imprevisto, proprio perché ti trovi in quel luogo. E diciamo che a livello anche emotivo e psicologico non è facile per chi non ha giustamente anche mai avuto esperienza di quel tipo di vita. E quindi forse sì, ci sono delle cose che bisogna fare, ma avere anche più tempo per metabolizzarle mentre si è lì di confronto. Quest'anno, per esempio, c'è stato tantissimo confronto rispetto magari agli altri anni su alcune tematiche politiche tra il gruppo italiano di West Climbing Bank e l'associazione di Leilac, proprio perché si è sentita l'esigenza di approfondire alcuni aspetti che magari, diciamo, di impatto ti lasciano anche un po' scosso. Una telefonata che abbiamo fatto era una persona dell'associazione, o sbaglio? Due Due telefonate. telefonate. Cioè, in realtà, su 4 telefonate che abbiamo fatto, tre sono Ok. dell'associazione. La prima volta che abbiamo fatto il programma, la seconda telefonata era Nagi, e lui è il presidente dell'associazione, appunto. È colui che tiene un po' le fila di tutto quanto. E gli altri ragazzi che abbiamo sentito, Aysar e Man, vabbè, Aysar adesso vive in Italia, però lui, anche lui fa comunque, nonostante viva in Italia, fa comunque parte di quell'associazione, Leilac, e Man ne fa ancora. E lui, tra l'altro, Man, lui arrampica, è uno proprio del gruppo di arrampicatori di Leilac ed è anche molto bravo. Noi qua a Zama abbiamo delle sue foto Ok. mentre lui arrampica. Sì, diciamo che questo è più o meno il pacchetto West Climbing Bank. E il gruppo è cambiato nei 3 viaggi, si sono aggiunte persone, hai detto, ma si sono anche tolte. Sì. Ok. Il numero più o meno di quanti è composto? Allora, siamo partiti con 10, da 10 persone siamo arrivati a 19. Il primo viaggio eravamo 10, l'ultimo 19. Bellissimo. E le persone sono cambiate, ovviamente dai numeri si capisce che siamo Sì. cresciuti, però magari a volte chi è venuto una volta, chi non è tornato, chi è venuto 2 volte, ma per varie motivazioni. Devo dire che appunto, essendo un progetto che sì, ci si sente, ci si organizza tutto l'anno, quindi si sta molto in contatto, però poi... Si organizzano anche eventi durante l'anno di finanziamento per esatto, il, di finanziamento viaggio per dell'anno il viaggio, stesso. Sì, per ciò che si va a fare giù. Quindi, diciamo, siamo sempre in contatto, è sempre attivo, poi però appunto ha quella durata effettiva di 10 giorni a dicembre, comporta il fatto che magari a volte non ci si riesca a organizzare bene neanche con la propria vita qua in Italia. Non ci sono state, diciamo, defezioni per qualche problema né legato al gruppo né alla, all'impatto, diciamo, della Palestina. Non, da quel punto di vista, anzi no, la tendenza è proprio quella di voler tornare ogni volta. A volte però non si può, per almeno nel nostro gruppo funziona così, per altre contingenze. Questo. Poi c'è chi non può tornare perché non è ben vista ai controlli, però quelli sono altri punti di vista, ma si può fare comunque in qualche altro modo, tipo pubblicare tutti esatto, gli articoli da qua, gestire tutta la comunicazione. sì, che non è una cosa indifferente anche quella. E vabbè, quindi vi ho raccontato un po' di questo progetto, trovate il sito www.westclimbingband.com con tutti i nostri articoli, tutte le nostre impressioni del viaggio. Al momento non ci sono ovviamente eventi in programma, ne avevamo uno, ma a causa coronavirus e quarantena abbiamo dovuto ovviamente farlo saltare, quindi spero che non appena sarà possibile di nuovo la circolazione delle persone poter riprendere quel discorso. E potete trovarci anche su Facebook, West Climbing Bank, dove lì ci sono tutti gli aggiornamenti, mandiamo anche notizie legate alla Palestina comunque. E per chi fosse interessato o interessata ad unirsi al gruppo per qualsiasi ragione, sia sportiva che politica, non dovete fare altro che scriverci alla pagina e noi rispondiamo abbastanza celermente, e sperando appunto che qualcuno abbia voglia di partecipare, sempre che chissà se si potrà viaggiare. Guarda, sono per al dicembre. Supermercato oggi c'era una pubblicità in radio di un'agenzia di viaggi che diceva: quando si potrà tornare a viaggiare sarà tutto più bello, mi raccomando approfittate dello sconto del 20% fino a dicembre. Quindi secondo loro è semplicemente un momento in cui non si può viaggiare, e quando si potrà tornare a viaggiare, perché si potrà tornare a viaggiare, secondo loro è dicembre, applicano questo sconto. Poi se si torna a viaggiare domani tu hai già preso un biglietto scontato, se non si torna esatto. a viaggiare fino al 2024 non si capisce, però loro hanno detto dicembre, a gennaio sicuramente si viaggia. Lì in particolar modo per la Palestina, Israele è stato uno dei primi stati che ha chiuso esatto. proprio sì. all'Italia, sì. nello specifico sì, sì, sì. ovviamente. E quindi boh, però c'è stato il primo momento, quello di non si capisce bene cosa sta succedendo, che i prezzi dei voli erano crollati, infatti ero già pronta, ho detto vabbè, male che vada. E invece no, li hanno chiusi, quindi boh, vediamo, io spero che per quel momento sarà possibile di nuovo, e quindi però sicuramente, anche se non si potesse viaggiare, qualcosa organizzeremo, qualcosa la faremo nell'arco dei prossimi mesi, questo di sicuro. Quindi scriveteci o leggete il nostro bellissimo sito. E per spezzare tutta questa parlantina, che io quando inizio non smetto più, ancora un po' di musica palestinese. اسمك وحده شو أناني Eccoci qua. Eccoci tornati e tornate. Questa volta non ho combinato pasticci a livello di no, radio. Anzi, no, anzi, ma non sono pasticci. Secondo me, io volevo fare una comunicazione in live a voi e a Giulia, che da sabato prossimo lei sarà da sola alla regia. Nel senso che, sì, assolutamente. Gireremo magari a livello di speaker, eccetera, però la conduzione sarà interamente sua, secondo me ce la farà benissimo. Ovviamente monitorata da remoto, ma solo da remoto. Quindi ci sarà la chiamata d'urgenza, se è solo un'urgenza, altrimenti tutti gli strafalcioni che sentirete saranno direttamente suoi. Riconducibili a me. Esattamente. E basta. O che non sentirete, perché c'è anche quella possibilità che non si senta. Ma si sentirà, lo sappiamo che si sentirà, perché è bravissima e oggi ha fatto praticamente tutto da sola. E niente, abbiamo dei consigli. Sì, allora adesso diciamo che ho parlato abbastanza, ho cianciato abbastanza. Quindi volevo lasciarvi appunto questi riferimenti bibliografici. Il primo è Alain, credo che si pronunci così, Grèche, è un giornalista fondamentalmente francese, vive in Francia, ma è nato a Il Cairo. E lui ha affrontato tantissimo la questione appunto palestinese. E c'è questo libro che si chiama proprio Israele-Palestina, edito da Einaudi, ed è veramente un libro molto, molto piccolo, ma molto facile, molto, molto breve, veloce da recepire, però riporta a livello storico tutte le cose importanti, storico-politico, le cose importanti. E invece l'altro di cui vi accennavo prima, appunto, è un libro di narrativa scritto da Susan Abulawa, spero che si pronunci così. Lei è palestinese ma vive in America, e il suo libro più famoso, il primo, poi ne sono usciti altri, ma io consiglio vivamente di iniziare appunto dal primo, Ogni mattina a Jenin, edito da Feltrinelli. È stupendo per approcciare appunto tutta la questione palestinese da un punto di vista più appunto narrativo, quindi avvicinarsi con estrema delicatezza, perché poi lei ha un metodo di scrittura veramente, veramente sublime. E finora io l'ho anche usato come regalo, come consiglio, e mi è stato regalato allo stesso modo, e veramente è molto, molto bello. Lo consiglio ovviamente a tutti, vi manderò i riferimenti sulla chat Telegram. Dopo questo, appunto, vi ricordo tutti i modi per rimanere aggiornati con la radio ZAM. C'è il canale Telegram, si chiama Radio ZAM, dove noi mandiamo tutte quante le informazioni dal palinsesto quotidiano, i vari programmi nel momento in cui vanno in onda, dove potete anche trovare i podcast, che però andranno in onda tutti domani, come diceva prima Lorenzo. Poi c'è la pagina Instagram, da pochissimo nata, grazie al nostro compagno Cigo. Anche su Instagram ci chiamiamo Radio ZAM Mi Sud. Radio ZAM Mi Sud. Sì, perché Instagram c'è i nomi che non si possono usare. No. Radio ZAM Mi Sud. Radio ZAM Mi Sud. E anche lì mandiamo tutte le informazioni legate alle varie programmazioni quotidiane. E inoltre c'è la pagina Facebook Radio ZAM, e anche lì vi mandiamo tutto quanto ciò che ha a che fare con i nostri programmi. Ma la particolarità della pagina Facebook è che voi lì potete scrivere a noi, quindi diciamo che diventa un modo di comunicazione abbastanza facile. E io credo di aver detto tutto. Sì, giusto. Avervi ricordato tutto a posto. Quanto. I siti dei podcast, no? I podcast li hai messi in Telegram, poi sono lì, ecco. Li trovano da lì comunque archive. E adesso tutta la musica che c'è ovviamente viene mandata nel sabato pomeriggio palestinese, che io inauguro, esatto. Nella musica a rotazione di Radio ZM. Rimane abbastanza di monopolio, sì, il sabato, sì, in questo senso. E questa che manderò tra poco è l'ultima canzone nuova della nostra playlist di questa diretta. E l'unica differenza dalle altre è che l'artista non è palestinese, ma è tunisina, mi sembra. E quindi vi auguro un buon fine settimana, buona Pasqua, che so che abbiamo perso tutti quanti un po' la cognizione del tempo, ma però domani è Pasqua. È sì. Pasqua, quindi buon pranzo, perché sono sicura che l'attività in quarantena più gettonata sarà mangiare. Quindi buona pappa a tutti, buona Pasqua a tutti. E noi ci sentiamo sabato prossimo. Ci risentiamo con questo programma sabato prossimo, vi prometto, con delle dirette più succose che non io che parlo. È stato bellissimo. Grazie Giulia. Grazie a voi. Ciao. Un video a golfo e Steve.